Palla Spicchi con Carlo Genta. Non solo per un europeo, per tutti, è un evento incredibile, è la prima volta nella storia che l'NBA gioca una partita di regular season in Europa, quindi insomma questo dice tutto, insomma, sono contento di essere parte insomma, di questa piccola parte di storia del basket. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piadani di redazione, Pietro Lacorte in regia, i Clash che cantano, la voce invece non è ovviamente dei Clash ma di Andrea Bargnani. Il basket eravamo noi è il titolo di un libro che sto leggendo in questi giorni, lo conoscerete bene voi amici del basket, quello scritto da Larry Bird e Magic Johnson, un discreto bagno nell'adolescenza per quanto mi riguarda ma credo anche per Jerry De Rosa che è qui con me. Ciao, buongiorno a tutti, indubbiamente. Coach Dan Peterson invece quell'NBA ce l'ha raccontata. Ciao Coach! Ciao Jerry, ciao Carlo, Coach. Ciao a tutti i amici sportivi, assolutamente sì. Ma sai, leggendo questo libro, sai la cosa che mi sorprende di più? Non tanto in retroscena di questa rivalità, amicizia, di questa storia che comunque è una storia di sport, quanto il fatto che mi ricorda che all'inizio degli anni 80, fine anni 70, ma inizio anni 80, quando tu la raccontavi, la NBA come Lega era un fatto marginale, Lega piena di problemi, senza soldi, senza credibilità. Guarda che cos'è adesso, una delle più grandi aziende mondiali che questa notte taglia un altro traguardo, no? La prima partita di campionato in Europa. Esatto, l'ha già fatto questo un paio di volte in Giappone, tra l'altro nel Pacifico, questa è la prima volta che una partita ufficiale si gioca proprio sul continente. Sì, l'NBA per un po' di tempo è stata veramente piena di successo, come noi sappiamo qualche problema grazie alla crisi mondiale che c'è adesso, 15 squadre hanno preso un prestito, però dagli anni 70-80, quando dicevano 75% dei giocatori sono drogati e qui là eccetera, debiti dappertutto, società, quasi il fallimento, c'erano un certo momento 23 società, 15 in rosso, cioè 15 perdevano soldi. David Stern ha rovesciato tutto questo. David Stern ha rovesciato tutto, poi ti viene in mente che il campionato italiano invece esiste da 90 anni, Jerry. Sì, guarda grosso modo come siamo ridotti, no? No, poi c'era la differenza secondo me sostanziale che Larry Bird e Magic Johnson erano fortissimi, che secondo me fa tutta la differenza nel mondo, perché cioè, con due giocatori così non c'è lega indebitata che tenga, le partite le guardi lo stesso. Sì, sai però cosa, Coach, i grandi giocatori ci sono anche adesso naturalmente, mancano però secondo me, nessuno me lo toglie dalla testa, giocatori di così grande personalità. Ovviamente, e poi loro sono venuti all'NBA lo stesso identico anno, hanno fatto il finale NCAA in Michigan State con Magic Johnson, ha battuto Indiana State con Larry Bird nel 79 nella finale NCAA, sono entrati tutti e due in NBA nello stesso momento con talenti anche in diversi, però due grandi passatori, Larry Bird superiore come tiratore, Magic Johnson più fantasia e quelle cose lì, ma anche Bird aveva la sua parte. E sono arrivati nel momento più importante nella storia del 79, quando la Lega era in una crisi incredibile. Anzi, il primo anno di Magic Johnson, che lui era fatto la finale NBA 79-80, la finale è andata in differita dopo mezzanotte in America. Pensa te, adesso lo sbloccano tutto per la finale NBA. Quindi loro due e David Stern hanno sollevato, diciamo, le sorte dell'NBA proprio nei primi cinque anni degli anni 80. Sì, questo è pazzesco, è differita dopo mezzanotte la finale NBA, dirlo oggi, ma non sono passati 100 anni, ne sono passati 30, sono tanti, però voglio dire, guarda l'evoluzione che ha avuto questa Lega, incredibile. Sì. Coach, diario della settimana, della tua settimana, come facciamo ogni venerdì, domenica vai a Roma, sull'altra panchina non vate Valerio, ma Filipposchi in campo, non Larry Wright, ma chi vuoi tu, da Tome? Esatto, quindi il Datome sta giocando bene, sì. Primo tiratore da tre nel campionato italiano, 49%, e Roma viene da una grande vittoria contro Maccabi Tel Aviv, non voglio sentire niente, nessuno dire ah la partita non contava. Ehi, ah, ma non contava, non contava. Grazie ragazzi, provocatore che siete. Comunque è una buona vittoria per Roma e anche per il basket italiano, e devo aggiungere anche Siena che vince dei 18 punti, erano sopra di 31, sì, a Madrid contro niente meno che il Real Madrid dietro Messina. Hanno fatto due veramente colpi positivi per il basket italiano ieri sera. Settimana è andata bene comunque. Yeah, bene, siamo qui a Lecco ancora, mini ritiro, due giorni, adesso stiamo pranzando adesso, poi torniamo a Milano e domani allenamento, poi partenza per Roma, partita durissima. Un abbraccio coach, grazie. Ciao ragazzi, ciao coach. Ciao. Cosa dici? Ma è che come sempre ha ragione Peterson, nel senso che è peggio per Milano che la partita di Roma non contasse niente, perché hanno vinto, hanno trovato morale, e ne avevano bisogno dopo Treviso, e hanno potuto giocare la partita finalmente senza pressione addosso, e i risultati si sono visti. Insomma, arrivano in una condizione ben diversa rispetto a due giorni fa, quando arrivavano comunque da una brutta sconfitta a Treviso. Vinto l'amichevole del giovedì. È vero, però battere il Maccabi, che ti hanno dato più di 40 all'andata, insomma, ti fa crescere un po' la fiducia nei tuoi mezzi, che è uno dei problemi tanti di Roma. Sicuramente, credo, dopo questa vittoria, la squadra che affronterà Milano non è la stessa di ieri. Peterson, che sa benissimo queste cose, sono sicuro che è spaventato, insomma, da questa crescita di fiducia dalla Lottomatica. 800240024, numero verde, o se volete messaggi 349-238-6666, ne ho già diversi. C'è anche Omar che scrive, anzi ha scritto ancora prima dell'inizio della trasmissione: finalmente una prima serata con la NBA, a quando una partita di campionato in Italia? Si sta lavorando in quella direzione. Sinceramente la vedo lunga. Dove la giochiamo la partita in Italia? Cioè a Londra stasera. Il primo problema è il palazzetto. Bravo. 18.689 spettatori, tra cui Drogba, che ha detto che tifa Nets. Sì, l'unico posto. Ah sì, Drogba che tifa Nets. Check tifa Nets. Tifa Nets perché non ci sono i Lakers, che sono la sua squadra, eccetera. Superstar anche lì. L'unico posto che mi viene in mente in cui si potrebbe giocare una partita del genere è Torino, in effetti è l'unico palazzo dello sport adeguato per questo tipo di eventi, che sia una partita NBA o una Final Four di Eurolega, giusto per noi. Senti Jerry, ma sul discorso che facevamo prima, questa Lega, l'NBA ha grandissimi giocatori, ha grandi superstar, però io continuo a pensare che non abbia gente della personalità di Magic Johnson, che irretiva tutti con i suoi passaggi, con quel sorriso, di Larry Bird con la sua durezza, con la sua capacità di essere vincente. Insomma, personaggi calamita di questo tipo non ce ne sono. Sì, indubbiamente, secondo me quella è stata una, diciamo, una decade unica. Ci sono incontrati, entrati nell'NBA nello stesso anno, i principali giocatori delle due squadre principali della Lega, con delle caratteristiche opposte, e quindi perfetti per una rivalità, ed entrambi, lo ripeto, fortissimi per motivi diversi. Era una meraviglia guardarli giocare, insomma mi sembra una serie di condizioni che rendono questa vicenda unica. Obiettivamente adesso manca questo tipo di rivalità, secondo me manca anche questo tipo di livello di conoscenza, di sapienza del gioco. Evidentemente il basket è cambiato, non per questo è meno bello, però insomma è leggermente meno affascinante, su questo non c'è dubbio. Poi diciamo conta anche il fatto che abbiamo tutti, io te, 20 anni in meno, quindi insomma è un discorso che magari possono, non tutti possono capire fino in fondo. Palla spicchi. Dunque, caro Jerry De Rosa, The Voice del basket televisivo, qui con me Siena, lezione al Real Madrid ieri sera. Anche qui amichevole, cioè voglio dire, una partita che non contava, però qui c'erano già, potevano esserci già schermaglie psicologiche, no, tra due squadre che continueranno ad essere della partita e del gioco. La cosa più divertente nella partita di ieri sera, Siena che va più 31, che domina, eccetera, erano le continue inquadrature alla faccia in primo piano di Ettore Messina. Io sono convinto a un certo punto di aver visto del fumo che gli usciva dalle orecchie. Sono convinto. La vignetta anche. Sì, sono convinto. Con la censura. Sì, sì, no, hanno imparato a conoscerlo anche i registi spagnoli. Insomma, si sa che nelle poche occasioni in cui le partite della squadra di Messina vanno male, bisogna stare con una telecamera su di lui, perché la faccia spiega molto meglio di tante parole, insomma, come sta andando la partita. Io credo che Siena stia facendo un assoluto capolavoro, se pensiamo che ieri era senza McCaleb e senza Cauchenas, cioè i due migliori, anche solo guardando i numeri che contano poco in questo caso, non stiamo di Siena, però i due migliori realizzatori, quelli che possono risolvere l'azione anche con una giocata individuale, e hanno fatto una partita di questo tipo. È vero, che non aveva effetti sulla classifica, però come dicevi tu, insomma, è un messaggio che manda tutta l'Eurolega, Siena, perché tutti, secondo me, anche in Europa si erano un po' scordati di Siena nel momento in cui aveva perso McCaleb, sì, e aveva perso le prime due partite di Top 16. Ha compiuto, secondo me, un'impresa assolutamente unica, penso di non esagerare dicendo che la, almeno a me è quella che ha impressato di più di tutta la gestione Pianigiani, devo dire, perché questa era veramente come scalare l'Everest e se sono riusciti. Certo. Il Real invece come leggi questa controprestazione? Peccato di gioventù per una squadra che comunque sapeva già della certezza del primo posto, come può essere letta? Il Real, anche guardando il campionato, è soggetto in questa stagione ad alti e bassi, alti molto alti e bassi molto bassi, quindi è una squadra abbastanza indefinibile, per questo pericolosa in una serie playoff. Ha dimostrato nella partita di andata a Siena di poter giocare anche un ottimo basket, di avere giocatori che possono spaccare la partita, però una squadra che per definizione, vista la giovane età, è incostante e lo sta dimostrando un po' dall'inizio dell'anno, insomma. Alberto da Udine, buongiorno Alberto. Buongiorno a tutti gli amici della pallacanestro. Dica. Sono arrabbiatissimo col gioco NBA, ma prima, siccome avete nominato Magic Johnson e Larry Bird, a casa mia quando si nomina Larry Bird ci si alza in piedi, voglio dire che sono stati due grandi, basterebbe dire solo perché hanno fatto diventare più grandi i loro compagni di squadra. Ma certo, e questo col certo campione di oggi non succede. È vero. Per quanto riguarda invece la NBA, con cui sono molto arrabbiato, perché il gioco NBA disintegra ancora una volta i nostri talenti. Danilo sta diventando sempre più uno specialista, un giocatore che pascola un po' dietro la linea da tre. Ma se si vuole un giocatore così, prendiamo Bonner, ad esempio, dei San Antonio Spurs. Ho visto Danilo in una partita a New York arrivare in attacco per 5 azioni consecutive e non superare la linea da 3. Come se per Danilo il campo fosse più corto di 7-8 metri. E la rabbia cresceva nel vedere Danilo in mezzo all'area doversi arrangiare con piede perno o finte e naturalmente far saltare 9 volte su 10 il lungagnone di turno. Allora, visto che siamo in tema vintage, scomodiamo Oscar Robertson, che da tempo dice ma tra il tiro da tre e la schiacciata cosa c'è rimasto in mezzo? Purtroppo, secondo me, non molto, e invece lì dovrebbe esserci tanta pallacanestro. Ma se i punti di riferimento sono Kobe Bryant o LeBron James, secondo me non c'è speranza. Basterebbero l'arresto e il tiro di Bielov e il piede perno di Poliroga, e credetemi, vedremo fiorire di nuovo grandi interpreti di questo sport di squadra. Mio caro Alberto, tra in quel soltanto, davanti a quel soltanto c'erano le virgolette, no? Soltanto l'arresto e il tiro di Bielov, insomma. No, però il messaggio però è perfetto, cioè, da imitare sarebbero questi giocatori e questi aspetti tecnici del gioco, io sono perfettamente d'accordo, io abolirei il tiro da tre punti, guarda, per come ha condizionato il gioco negli ultimi anni. Torniamo al vecchio campo e ci si avvicina al canestro, insomma. Adesso ovviamente è una provocazione, però è vero che l'NBA, soprattutto se la giochi in squadra non di vertice, ti condiziona molto, ti cambia come giocatore, ti rende forse anche un po' più pigro, e secondo me la dimostrazione l'abbiamo avuta nel primo Andrea Bargnani tornato dall'NBA con la nazionale, che appena negli europei di Spagna si è trovato, non so, Smodish, che gli ha dato due spallate, due spinte ed è uscito completamente dalla partita perché era un tipo di basket a cui non era più abituato. È vero che secondo me però dipende anche molto dai giocatori, che comunque anche nell'NBA possono trovare questo tipo di basket. Evidentemente giochi in una squadra che vince 20 partite all'anno, da febbraio a marzo in poi è inevitabile che ti impigrisci. Allora Jerry, io passerei dall'NBA, da questi discorsi che poi riprenderemo a fare, a un'altra questione italiana. NBA dagli anni 80 a oggi, stiamo ricordando quale cammino ha fatto come Lega, campionato italiano, 90 anni, poi oggi scopri, leggi eccetera, c'è una squadra di Serie A, di livello, di alto livello, che sta improvvisamente cambiando casa. Io voglio capire che cosa succede a Montegranaro, per questo ho chiamato mio vecchio amico Gianmaria Vacirca, general manager di Montegranaro, o se preferisce capitano non giocatore. Ciao Gianmaria. Buongiorno a tutti. Ciao capitano Gianmaria. Non giocatore. Capitano. Come era Berardinelli, come era Panatta. Anche questo sono sempre vintage, un grande appassionato di tennis. Quindi. Lo so perfettamente. Senti, ma che sta succedendo? Me lo spieghi? Cioè, dov'è la nuova casa? Perché cambiate casa? Che sta succedendo? Ma sta succedendo intanto che, insomma, Montegranaro è rimasta l'unica realtà della Serie A ad avere una Babele, perché è in piedi da 6 anni uno scheletro di un palazzo mai completato, e da 5 anni Montegranaro emigra a Porto San Giorgio, che per farti un esempio è come se da Pavia andassero a vedere la pallacanestro di Gemano. Sì. E quindi, perché Montegranaro e Porto San Giorgio sono due realtà legate da antichissime rivalità, Guelfi e Ghibellini, rivalità sportive, partite epiche, botte in tribuna, insomma dei pionieristici. Il ciclo si è concluso perché all'interno di questo impianto ormai da 2 anni e mezzo non si vede l'indomani, non si sa cosa può succedere il giorno dopo. Le ultime due cose che sono accadute: la rimozione del gestore, che era in causa col comune da più di un anno, e quindi faccio un esempio, il sequestro anche di attrezzature, il fatto di dover richiedere permessi per riappropriarsi dell'apparecchio di 24 secondi, il fatto di dover chiamare la polizia municipale per entrare nella stanza e ritirare, non so, i lettini del massaggiatore. Infine, una volta che è momentaneamente cambiata questa gestione, una richiesta danni avanzata da uno dei tre, chiamiamole, delle tre situazioni che hanno interesse su questo palasport, perché a loro avviso abbiamo dei cartelloni pubblicitari dello sponsor principale che invadono spazi di appartenenza altrui. Una squadra di Serie A non si può permettere di vivere la giornata e di non sapere cosa può accadere l'indomani. Quindi la scelta deriva soprattutto dalla stanchezza che si è avuta negli ultimi 2 anni di convivere con situazioni di disagio. Però, Jerry? Sì, fra l'altro tutto questo nonostante, grazie all'opera di Gian Maria, il palazzetto aveva preso una faccia molto interessante anche, insomma, per noi che ci venivamo a fare le riprese. Gian Maria ci aveva fatto vedere l'ultima volta gli spogliatoi con gli armadietti, insomma avevano fatto di tutto per renderlo la vera casa, no, dell'Assutor. Sì, ti faccio un esempio: noi abbiamo posizionato, grazie a degli sponsor, 3.000 seggiolini anziché 3.000 listoni di legno. Adesso ci accusano anche di avere degli adesivi sui seggiolini, tanto per farti un esempio. Quindi i seggiolini sono stati praticamente donati al comune, perché poi fanno parte di quelle opere di miglioria che erano all'interno della convenzione tra il precedente gestore e il comune. Il precedente gestore, che di buona lena di notte si metteva insieme a noi, insieme a me, perché ho montato i seggiolini, a rendere l'impianto migliore. Quindi insomma è tutta una situazione che veramente ci ha un po' esaurito, e dovendo noi pensare ai problemi delle partite, arrivare a lunedì e andare a parlare con gli avvocati, a martedì idem, a mercoledì idem, insomma noi dobbiamo giocare. Infatti. Senti, ma gli occupanti di quei seggiolini, cioè i tifosi, che cosa dicono? Ma guarda, questo? I tifosi sono la prima cosa a cui guardare nel momento in cui si fa un trasferimento, perché soprattutto se ciò dovesse avvenire per più partite nel campionato in corso. Quindi noi prima di tutto andremo a tutelare gli interessi dei tifosi, gli abbonati e gli sponsor. Sai, i tifosi sono un po' divisi: c'è chi comunque, montegranarese doc, non ha mai amato Porto San Giorgio, c'è chi dice ma comunque Porto San Giorgio è la nostra casa, c'è chi dice ma comunque lì il fattore campo è diverso rispetto ad esempio ad Ancona. Però Carlo, vi do un altro dato: noi abbiamo un calo di pubblico progressivo negli ultimi 3 anni enorme, abbiamo un ulteriore calo quest'anno rispetto all'anno scorso, e l'anno scorso nei playoff con Milano abbiamo fatto 2.900 spettatori con una squadra, ve la ricordate, che vinse 9 partite di fila, data per retrocedente a inizio stagione. Quindi si è cercato un po' di fare qualsiasi cosa per rendere anche più attrattiva la struttura, convenzioni per i prezzi, abbonamenti che sono rimasti, come dire, a un prezzo secondo me assolutamente accessibile. Però probabilmente si è spremuto un po' tutto, e questa realtà ha bisogno di un respiro diverso per poter in qualche modo continuare a crescere e non arrestare il proprio sviluppo. Grazie Gian Maria. Ciao Gian Maria. A voi. Grazie, buon abbraccio. Ciao Gian. Dici Carlo, i problemi che devono affrontare le società sono questi. Noi abbiamo parlato di NBA, abbiamo parlato di un movimento che fatica a crescere. Sinceramente, quando qua a Montegranaro, una società che ha fatto benissimo negli ultimi anni, è diventata un po' l'orgoglio di una regione, forse la massima rappresentante della regione a livello di sport nei campionati di alto livello, ha fatto tutta questa fatica a trovare un campo in cui giocare. Sinceramente si fa un po' fatica anche a pensare a un a progetti ambiziosi, insomma. No, ma anche al futuro, cioè diventa un po' difficile, sì. Diventa un po' difficile anche programmare, se devi programmare la partita della settimana, forse quello è il massimo obiettivo possibile in termini di programmazione in queste condizioni. Se pensi, no? Che a Montegranaro, che stanno facendo benissimo, la loro settimana tecnica cominciava il giovedì, visto che fino al mercoledì erano con gli avvocati. Pensa se avessero avuto tutta la settimana, avrebbero vinto gli ultimi 3 scudetti. That's incredible, that's unbelievable, really. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre qui con me Jerry De Rosa, la voce del basket di Sky. Volevo per un attimo tornare a Siena. Su Siena per guardare oltre la siepe c'è l'Olimpia Kos, come lo vedi? È dura perché bisogna vincere almeno una volta in trasferta. L'Olimpia Kos è molto forte, secondo me non è una squadra, però ha delle individualità fortissime, ha 4 playmaker che potrebbero strano che sono hanno fatto una mi piacerebbe un giorno sapere molto strano, però quanto hanno speso nelle ultime facciamo 4-5 stagioni, sì, quanto sì. Hanno speso per vincere nulla, per vincere nulla sia in Grecia che in Europa. E quest'anno ha fatto una squadra molto strana, sinceramente, perché hanno perso 2 giocatori come Kleza e Childress e non hanno preso nessuno in quel ruolo se non Kesady, che è un giocatore futuribile ma non sta trovando spazio. Hanno 4 playmaker, uno più forte dell'altro, che potrebbe essere titolare in qualsiasi altra squadra da Final Four, però obiettivamente, cioè, non sono una squadra, ma le individualità fanno paura. Siena è indubbiamente più squadra, non so se potrà bastare. Ultima ora di Sky, non c'è, potrei anche mandare la sigletta da Breaking News, eh? Si è dimesso Ettore Messina. Ah sì? Ultima ora di Sky. Ultima ora, allora lo sento anch'io da... La prendi dalla tua stessa TV, che io oggi per caso ho anche spenta. Si è dimesso Ettore Messina, questa non me l'aspettavo. Neanch'io, sinceramente, perché dicevamo una partita che non aveva valore per la classifica, deve essere successo obiettivamente qualcosa che non... all'interno dello spogliatoio, all'interno della squadra, insomma... Per cui, sinceramente, più di questo non ti posso dire. Anch'io non me l'aspettavo assolutamente. Io direi che magari adesso proviamo a fare un salto a Madrid da Filippo Maria Ricci, che ci racconta normalmente il calcio, perché magari ne sa qualcosa in più. Però mi sembra onestamente una notizia inattesa, ma anche perché mi pare, Jerry, non ci siano le condizioni. Tu puoi perdere anche malissimo, come è successo ieri sera, una partita che comunque non conta, risultato acquisito, arrivi primo nel girone. Hai perso la Coppa del Re col Barcellona, e questo trend nei duelli Real Barcellona è comunque negativo, pesante rosso per il Real ormai da tante stagioni. Però voglio dire, che condizioni ci sono per una decisione di questo tipo? No, anche perché comunque sì, è un Barcellona fortissimo. Il problema di Messina, ma di tutti i giocatori del Madrid, è aver incrociato questa fase in cui il Barcellona è troppo più forte, come avviene peraltro anche nel calcio. Però appunto Real Madrid primo nel suo girone, ha un quarto di finale abbordabile contro Valencia, che si giocherà in casa con la Bella, quindi insomma è sulla strada delle Final Four. Probabilmente, non so, io sto immaginando l'orgoglio di Ettore Messina ha pesato in una sconfitta così pesante in casa, però sinceramente sto andando per ipotesi. Per ipotesi sì, per tentativi. Sì. In tempo reale 2 messaggi subito, di colore opposto, di colore diverso. Grande notizia, Messina torna alle Vunere, magari, scrive uno. L'altro, Luca, se fossi Livio Prolli mi metterei subito in moto, perché qui si aprono mille altri capitoli. Lasciamo, no? Almeno qualche minuto. No, sì, subito. Dove va Ettore Messina, il tormentone che si innesca, no, da ora in poi? Perché si è dimesso, insomma, sì. Che non si è dimesso da una squadra qualunque, insomma, lasciare il Real Madrid credo che sia difficile per chiunque. Lui aveva detto, dopo aver mangiato robe brutte per una stagione, quest'anno che torno ad avere una squadra competitiva, una squadra molto interessante, tra l'altro Real Madrid, fatta con non tantissimi soldi rispetto all'anno scorso, ha detto di qui o mi cacciano via o io non sono mica è una squadra molto giovane con dei giocatori estremamente interessanti da allenare, insomma credo che per un allenatore anche di vertice vedere insomma qualche diamante da sgrezzare insomma sia molto così stimolante, no? Messina aveva mandato questo tipo di messaggio, dei giocatori che possono diventare delle stelle nei prossimi anni, e averli per le mani così giovani insomma credo che fosse molto stimolante. Vedremo quello che c'è. È chiaro che adesso, soprattutto da noi, la notizia sarà chi... Dove va Messina, dove va? Milano, sarà il tormentone. Tutti diranno, Milano, hai visto? L'avevamo detto noi che andava a Milano, e adesso è possibile. adesso è sì, possibile. Vediamo figuriamoci che... adesso. Io tifo per i Cos, naturalmente, finché morte non ci separi. Però, insomma, questa è certamente una notizia esplosiva. 800240024. Ascoltatore ancora Sandro, provincia di Novara. Buongiorno. Buongiorno a tutti, chiamo da Castelletto Ticino. Castelletto Ticino, come no? Sì, paese caro a Gianmaria Vacirca, che da lì ha iniziato so la benissimo. Scalata verso so la benissimo. Serie A. So benissimo. Tutto sommato. Tra l'altro io ho sempre voluto scusarmi con Gianmaria, in quanto da grandissimo tifoso di Castelletto lo criticavo nella prima fase, quella che... vedere Castelletto sempre sconfitto in Lega 2, salvo poi osannarlo quando ha portato a Castelletto Drake Diner. E ne riconosco il valore assoluto, ma ho chiamato più che altro per io sono un tifoso accanito di Milano, sì. E ovviamente sono sofferente da 10 anni a questa parte per l'andamento della società. E se fossi veramente la dirigenza milanese, andrei a Madrid in bicicletta a caricare Messina e portarlo direttamente a Milano. Perché lei lo vede già lì che fa l'autostop? Sì, se vuole vado a prenderlo io con la macchina, non ci sono problemi. Stiamo parlando comunque forse non del più vincente allenatore europeo, ma comunque del Mourinho del basket, dell'allenatore che prepara la partita in un modo talmente minuzioso che è difficile che sbagli qualcosa. A Milano sostanzialmente in questi anni è mancata proprio, secondo me, una guida tecnica che indirizzi non solo i giocatori ma anche la società sulle scelte da fare. Sì, è stata fatta un po' di confusione, sono stati spesi certamente molti soldi, non sempre benissimo. Possiamo azzardare un parallelo con la situazione della Juventus, mi viene da dire. Sì, tanti progetti, no? Poi rinnegati in maniera precipitosa, insomma, l'ultimo è appena ricominciato, quindi io vedo sempre un grosso problema quando non c'è stabilità, però è inevitabile che già l'anno prossimo Milano sarà diversa da quella che stiamo vedendo adesso. È chiaro che adesso, insomma, vista la notizia che hai appena dato, tutti cominciano a sognare, insomma. Sì, però insomma Messina aveva qualche perplessità a tornare nel basket italiano, l'ha sempre detto anche ai tempi del CSKA. Chiaro che sì, è passato un po' di tempo, insomma. No, poi tutto sommato Milano è una squadra che ha ambizioni, che ha una proprietà importante come l'Armani e che ha ambizioni comunque europee. No, intanto, mentre tu parlavi stavo smanettando sui siti internet, sono andato sul sito del Real Madrid, ma non vedo notizie, ANSA non dice nulla, però insomma la notizia che arriva da... affidabile da Sky è questa. Proviamo a cambiare argomento, poi ci torniamo naturalmente con gli ascoltatori, perché mi pare che anche su Marca Nulla mi informa Franco Piantanida dalla redazione, però insomma attendiamo fiduciosi qualche altra notizia, magari tempo della fine della trasmissione. Venerdì prossimo c'è il Circo in Città, no? Qui a Milano. All Star Game che torna, io sono contento. Ti piace? Mi piace l'idea, poi adesso vedremo come sarà organizzato, sì, ma sono sicuro molto bene. Mi piace l'idea che ci sia un momento in cui il basket faccia una piccola festa, un momento anche di incontro fra tutte le varie componenti, che ci sia la nazionale che torna a Milano dopo tantissimo tempo. A me piace insomma il concetto, che si provi a coinvolgere anche diciamo fasce di spettatori meno interessati al basket, con la gara delle schiacciate, con la gara del tiro da 3 punti. È chiaro che noi Black Griffin non ce l'abbiamo, però siccome White o Viggiano un po' di spettacolo lo possono fare, qualcosina possono fare. È un evento che io organizzerei prima, secondo me prima dell'inizio della stagione, però insomma poi diventa un discorso lungo, però un evento che secondo me è mancato in questi anni. Restiamo a casa tua. Flavio Tranquillo, buongiorno. Ciao Flavio. Buongiorno. Ettore Messina che si dimette. Ma sono completamente impreparato sì, perché impegnato in altro dall'inizio della giornata, pur avendo visto ieri la partita e avendo visto che c'era qualcosa che non tornava, perché quelle facce non erano normali, posto che non sarebbe servito a nulla anche un'eventuale vittoria di 20, non so andare oltre quello e non so andare oltre un generico rilevare che è molto molto inusuale, per usare un eufemismo, per una squadra di Messina avere così tante ricadute. Mi ricordo bene una Virtus riuscita male, quella di Economu e Stombergas e altri, e l'angoscia quasi di Messina a quell'epoca nel dire: quando vado alla partita non so che cosa aspettarmi della mia squadra. Sì. Questa è una cosa che l'ha sempre angosciata ed è stata proprio la caratteristica che non hanno avuto le squadre vincenti di Ettore, il Cesca, la Virtus, la Benetton. Quelle squadre magari potevano anche perdere delle partite importanti, ma quando andavi al campo più o meno sapevi cosa avrebbero fatto bene e cosa avrebbero fatto male. Quando il Real in due stagioni consecutive ha questa caratteristica, pur anche con dei picchi in alto, posso capire ci sia qualcosa che non torna. Da lì a dimettersi, poi la strada è lunga, ma non ho elementi in questo momento. Sì, io mi rifiuto di pensare che sia stata la sconfitta di ieri sera, perché sarebbe talmente sciocco da essere appunto inimmaginabile, no? La sconfitta di ieri sera è una sconfitta in una partita che giocata malissimo a Real, ma che non conta nulla alla fine, quindi mi rifiuto di pensare che il punto sia quello. Però Flavio, ci sono dichiarazioni datate non più di due settimane fa con Messina che dice: finalmente sto costruendo e se di qui non mi cacciano non me ne vado neanche col fucile, con i fucili puntati alla schiena. E invece non è così. Di sicuro hai ragione a dire che sarebbe del tutto fuori luogo pensare che la sconfitta in quanto sconfitta, o perché è stata di largo scarto, o perché è stata in casa... o per qualsiasi altro motivo inerente a quei 40 minuti possa essere l'unica causa scatenante. Io credo che quelle dichiarazioni, per quello che risulta a me, avessero un senso, avessero una fondatezza. Addirittura si sta parlando di estensione, però posso che siamo sempre nel campo delle ipotesi, quindi lasciano il tempo che trovano. Stiamo parlando di una persona altamente razionale. Però altamente razionale non significa titubante, altamente razionale ma altamente decisa. Quindi se matura una convinzione, e lui sa quando una convinzione è granitica, potrebbe anche averla maturata al 13° minuto della partita di ieri, non necessariamente tanto solo per la partita, e a quel punto non lo smuovi più e non è che sta a traccheggiare. Grazie Flavio, buon lavoro. Ciao Flavio. Un abbraccio. Ci sentiamo domenica. Grazie a Flavio Tranquillo. Traffico, poi torniamo insieme. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Ovviamente ce ne sono un sacco, tipo Vienna Milano si sapeva da tempo. Vabbè, questo è scontato. No, è scontato il messaggio, non che venga a Milano, tutt'altro. Palla spicchi. E dove va Ettore Messina? Il gioco del momento, no? C'è chi dice: ma che Bologna-Milano, Messina a Venezia con la Reier in A1, vale tutto. Vabbè, a questo punto, insomma, ripeto, aspettiamo punto, almeno tanto qualche giorno. Questa, insomma, settimana vale sognare... tutto. Questa settimana vale tutto. Jerry, volevo tornare al discorso Stargame, perché da un lato i stranieri, spettacolo, schiacciate, eccetera, eccetera. Posto che a me gli Stargame in generale fanno venire un po' di allergia, un po' di orticaria, perché io sono d'accordo con te sul fatto che serviva. Cioè che se si avvertiva la mancanza di una vetrina di questo tipo alla pallacanestro italiana, poi giustissimo giocare comunque metropoli, Milano, palazzetto moderatamente adeguato, eccetera eccetera. Sul fronte nazionale invece sappiamo la convocazione di Viggiano, e mi sembra una splendida idea, perché questo giocatore, che peraltro conosco piuttosto bene, è un giocatore realmente molto interessante, realmente molto utile, può essere funzionale anche alle idee che Pianigiani ha della pallacanestro. Secondo me questa stagione sta dicendo però come Hackett e Gentile siano forse le sorprese migliori, no? Hackett perché è un altro giocatore rispetto all'anno scorso, Gentile perché sembra sul punto di esplodere. C'è Aradori che sta imparando a diventare un giocatore adulto, no? Dubbio, sì, non c'è dubbio. A Siena, quindi questi spunti, questi lampi di azzurro sono secondo me interessanti, al di là dell'amichevole che sarà lo Stargate. Sì, ma infatti non aspettiamoci una partita che darà risposte sul livello della nostra nazionale. È chiaro che saranno lì per divertirsi, per trovarsi. Pianigiani vorrà parlare con i giocatori, però è indubbio, insomma, che i tre giocatori che hai citato stiano facendo una stagione ottima e stiano dimostrando di essere veramente cresciuti, soprattutto a Radori e Gentile, secondo me, perché Gentile è proprio un altro giocatore, ha solo 18 anni, la cura con Repe già sta funzionando benissimo e lui ha proprio cambiato il modo di allenarsi, di approcciare questo sport, è molto motivato e proprio per migliorare. Ha cominciato a lavorare sulle cose che gli venivano male, non solo su quelle che il talento gli portava a fare bene. Radori è un altro giocatore rispetto solo all'anno scorso, perché ha capito che a Siena o diventa un altro giocatore o non gioca, e già quest'anno ha giocato poco, però secondo me questa per lui è una stagione importantissima, e anche ieri per esempio a Madrid ha dimostrato già di essere di livello anche europeo, sarà un'aggiunta molto importante per la nostra nazionale. Hackett adesso deve dimostrarci di essere questo giocatore anche al di fuori di casa sua, che sia il college, che sia Pesaro, perché un giocatore così è perfetto per la nostra nazionale, proprio nel ruolo in cui siamo carenti. Adesso, e spero che lo faccia quest'estate, deve dimostrare di essere proprio diventato un vero giocatore anche al di fuori di Pesaro. Senti, adesso facciamo un break. Lo stai guardando a Sei Nazioni? Sì. Cosa ne dici? Io sono molto critico, prendo un sacco di insulti, fischi e pomodori dagli ascoltatori il sabato quando parlo di rugby, ma perché non si può perdere sempre? Cioè, adesso... Sì, io devo dire che lo guardo proprio con gli occhi del profano e quindi mi piace molto l'ambiente, non sono tifoso, devo dire. Mi piace molto il clima che c'è intorno, mi piace molto il tipo di sport. Credo di non essere in grado proprio di giudicare dal punto di vista... È chiaro che anche a me suona strano che questa squadra perda sempre, però insomma... Mi sembra che giochi anche contro squadre di un livello talmente superiore, insomma, che anche solo diminuire lo scarto potrebbe essere un successo. Allora, sentiamo una notizia e voci dal Sei Nazioni con Dario Ricci. Speciale Sei Nazioni. 32 partite, 31 vittorie della Francia, nessun pareggio, una sola storica, leggendaria vittoria italiana. Bastano i numeri dei precedenti per farci capire che la sfida che ci aspetta sabato prossimo al Flaminio contro la Francia, reduce tra l'altro dal Grande Slam, ma pure dalla sconfitta di Twickenham contro l'Inghilterra, sarà una partita tutta in salita per l'Italia di Nick Mallet. Anche perché in quell'unica leggendaria vittoria, il 22 marzo 1997 a Grenoble, quando gli azzurri batterono per 40-32 i galletti, reduci dal Grande Slam nel Cinque Nazioni, potevamo contare su campioni come Giovannelli, Troncon e soprattutto su un Diego Dominguez praticamente infallibile nei calci. Tutt'altra musica adesso, soprattutto vedendo le scarse percentuali di realizzazione di un Mirko Bergamasco, che pure non si è tirato indietro di fronte alla necessità di costruirsi anche come calciatore, con risultati finora contraddittori, come dimostra il 2-5 al calcio che ci ha penalizzato contro il Galles. Il problema è che in allenamento funziona e poi in partita questo Sei Nazioni non sta andando molto bene, però ho ancora due partite per riscattarmi, quindi penso che le prestazioni precedenti prima del Sei Nazioni siano positive. No, non posso aver perso il calcio in 3 settimane, quindi continuo a lavorare e bisogna mantenere la testa alta e insomma spero di ritrovare poi la precisione che avevo l'anno scorso. Problema quello dei calci che non hanno certo i galletti, che possono affidarsi a scelta ai precisissimi piedi di Yashvili o di Parra. E poi occhio soprattutto al gioco a largo, al gioco in velocità, che è la grande specialità degli uomini di Levermont. Martin Castrogiovanni. Sicuramente la Francia è una squadra molto forte che gioca come loro dappertutto e dobbiamo essere sicuramente cercare di rallentare la palla perché non soffriamo tanto quel tipo di gioco lì, però se mettiamo tutto quello che dobbiamo mettere e siamo perfetti 100% vinceremo una partita. Purtroppo a questo livello qui non puoi sbagliare, se sbagliamo non vinceremo. Tanti gli azzurri che conoscono bene gli avversari francesi proprio perché giocano, sono impegnati nel campionato transalpino. Lo stesso Mirko Bergamasco, Mauro Bergamasco, capitan Sergio Parisse, Carlo Festuccia e poi Andrea Lo Cicero, che è uno dei punti di riferimento del Racing Metro Parigi, allenato dall'ex CT azzurro Berbizier. E allora sentiamo proprio il pilone azzurro sulla sfida che ci aspetta alla Flaminio. Beh, la Francia e sono i nostri vicini di casa, sono quelli che esprimono il rugby più più vivo, più di movimento, e sicuramente per noi è una squadra che solitamente soffriamo tantissimo. Dobbiamo solo approfittare il momento non di perfetta forma di questa Francia. E per lo speciale Sei Nazioni di oggi è tutto, un saluto da Dario Ricci. Cari Parma, sponsor della Nazionale Italiana Rugby, vi ha presentato Speciale Sei Nazioni. E su Sei Nazioni poi torniamo domani pomeriggio nel corso del tempo di sport, appuntamento grosso modo alle 5:15, iniziamo naturalmente alle 5, 5:15 faremo quattro chiacchiere su Sei Nazioni. Domani non si gioca, per fortuna, così non ne becchiamo delle altre, ma aspettiamo le ultime due partite con Francia e Scozia, poi prendiamo il cucchiaione di legno e torniamo a casa. Dunque, siamo quasi in chiusura, sono andato avanti per ora a raccogliere pareri sulla prossima destinazione di Ettore Messina. Però che partita fai domenica? Cosa vai a commentare? Caserta-Brindisi. Tra l'altro Caserta e Treviso che sono andati benissimo nella Coppa. Bisogna fare i complimenti a queste due squadre perché loro capo è tutt'altro che semplice. Adesso sono i quarti di finale. Però è una partita, insomma, Brindisi si sta giocando in queste settimane, insomma, perché faccio ancora finta che ci siano due retrocessioni, quindi questo poi vediamo, però, perché comunque, vediamo esatto, Avellino come finisce la stagione, adesso, sai benissimo. Non possiamo sapere nulla, però insomma, per agganciare il terzo ultimo posto, questa ogni partita è fondamentale. Mi domando quelli dal piano di sotto, cioè della Lega 2, come stanno guardando il campionato. Quante ne retrocedono? Chi ha i soldi per finire la stagione? Chi ha ancora una casa e Montegranaro non ce l'ha più? Mi immagino come debba essere dura la vita di alto livello in Lega 2, che hai speso soldi e non sai che cavolo succederà. Sì, come è dura la vita anche dei tifosi che non sanno se tifare per una semplice vittoria, per una speranza promozione. Esatto. Non è facilissimo. È durissima anche la nostra. Caro Jerry, buon lavoro. Grazie Jerry De Rosa, Franco Piantini in redazione, Pietro Agorti in regia. Ci sentiamo domani alle 5. Vi aspetto.